piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Gli Umarels amano trascorrere le loro ore a zonzo per la città, mani rigorosamente dietro la schiena, nella loro tipica postura. Gli Umarels passeggiano osservando il mondo che cambia, sentenziano e criticano. Anche se possono dormire fino a tardi, gli Umarels si svegliano presto, fanno una colazione abbondante, si vestono e escono. Nessuno sa per quale inspiegabile motivo si comportino così. Devo confessare una mia gioia che vorrei condividere con voi, gioia che mi coglie tutte le mattine, di prima mattina fino a più o meno l'ora di questa diretta. Io la passo in un cantiere, mi sono autocostruito un cantiere, sto ristrutturando un locale proprio sotto casa mia dove farò un laboratorio per mio figlio, ma la gioia più grande la mattina è aprire il cantiere e cominciare a seguire e collaborare con gli operai, allo stesso tempo criticare gli operai, fare l'operaio e criticare me stesso. Insomma, io sono il primo Umarel della storia del nostro paese che si è costruito un cantiere personale, e su questo cantiere personale lui ogni mattina consuma il suo miracolo gioioso. Perché voglio questa mattina parlare di questo cantiere da cui lentamente mi allontanerò per potervi parlare? Perché naturalmente il termine Umarel, ecco, chiuso la porta, che voi conoscete perché più volte l'ho citato, termine coniato da uno scrittore, un saggista, un agitatore culturale bolognese, un antropologo urbano che è Danilo Maso Masotti, beh, a pieno titolo è entrato nella dignità del nostro linguaggio, la nostra lingua italiana. Nello Zingarelli edizione 2021, vocabolario della lingua italiana, nell'edizione che è appena uscita, è stata immessa il termine Umarel. Il termine Umarel oggi a tutti gli effetti fa parte della nostra lingua, lo può usare qualsiasi bambino in un tema, lo si può citare in qualsiasi conversazione, si può tranquillamente parlare dell'Umarel come un personaggio che è stato identificato, studiato, classificato, analizzato scientificamente, corroborato da Danilo Masotti. Chi è l'Umarel? L'Umarel è quel signore, età media, pensionato, pensionabile o post-pensionato, che la mattina si alza prestissimo, va in giro per le città, mantenendo le mani dietro la schiena nella tipica postura. Il suo principale scopo attrattivo è andare a guardare i cantieri, assieme ai suoi amici guarda i cantieri, commenta, naturalmente nulla gli va bene di quello che si sta facendo, perché nessuno adeguato ai suoi tempi in cui certi lavori si facciano bene. Poi più o meno impiega la giornata guardando i giornali murali, facendo la spesa, passeggiando, andando ai giardinetti, rientra a casa molto presto, mangia, poi c'è un'uscitina pomeridiana e prestissimo si va a coricare. Danilo Masotti, buongiorno. Buongiorno. Oggi è la tua grande giornata, diciamo la verità. Dopo anni di sacrificio, finalmente hai una soddisfazione. Una grandissima soddisfazione, poi tu mi hai seguito sin dall'inizio e quindi puoi capire la gioia di vedere finalmente scritto sul dizionario la parola Umarel, addirittura col plurale che ho definito, cioè Umarels. Umarels, sì. Umarels, che è, diciamo, un anglicismo burino, una cosa del genere. Burino, sì, è un inglese finto, insomma. Cioè, dove ho messo questa S, Umarels, perché sin da subito, dalla mia prima osservazione, ho notato che questa categoria dell'uomo era presente in tutto il mondo e quindi ci voleva una parola globale in un finto inglese che capissero tutti, e finalmente anche perché passata. Onestamente ogni tanto mi mandano foto di Umarel dalla Corea, dalla Cina, dal Giappone, dall'India, dall'Asia più lontana, dalla Papuasia. Non so perché tu hai individuato una costante comune probabilmente nel patrimonio genetico dell'intera umanità, che porta che a una certa età le persone mettano le mani dietro la schiena nella tipica postura. Tu hai classificato in varie sottocategorie, moltissime, esatto. Che ne so, mano destra tiene il polso sinistro o viceversa, o le mani giunte o le mani... esiste una mille varietà, ma fanno esattamente le stesse cose ogni parte del mondo. Sì, infatti è proprio un codice umano, quindi postura, mani dietro la schiena, osservare, dare consigli spesso non richiesti alle maestranze al lavoro. Allora, noi negli anni con Danilo Masotti abbiamo parlato degli Umarell, lui ha scritto vari libri, Umarells del 2007, Pendragon Edizioni, Oltre il cantiere, Fenomenologia degli Umarells 2016, Pendragon Edizioni, diciamo è uno dei termini più imitati. Ci sono stati dei ragazzi, dei simpatici costruttori attraverso stampanti 3D che hanno preso l'Umarell Danilo Manu Masotti, l'hanno fatto loro e hanno commercializzato anche il simulacro dell'Umarell, ne ho anche io uno, è anche divertente, carino, però diciamo che il vocabolario della lingua italiana riconsacra Masotti come, diciamo, lo scopritore di una categoria umana. Cosa voglio fare questa mattina, se Danilo mi aiuterà? Io vorrei innanzitutto chiedere al nostro pubblico, chiamando all'800240024, di classificarmi e indicarmi tutte le categorie di umarellaggine a cui si sentono di appartenere. È il momento di fare una sorta di autocoscienza. È facile guardare, osservare gli umarelli, individuarli, fotografarli, riderci sopra, ma è un po' più difficile ammettere, come ho fatto io questa mattina, il mio delirio è avere un cantiere personale ed essere ogni mattina umarell e oggetto all'osservazione dell'umarell. Questo mi dà una soddisfazione estrema. Però in questo momento particolare devo dire che vorrei fare un'altra osservazione con Danilo e voi mi aiuterete. Viviamo in un momento molto strano, molto particolare, molto singolare e anche molto drammatico della nostra vita. In questo particolare momento storico noi viviamo in una segregazione, in una mancanza di socialità, in una limitazione di attività. Io adesso ti lancio una sfida, Nilo, dimmi se te in qualche maniera puoi articolarla con gli strumenti della tua analisi antropologica. Io trovo che la persona più geneticamente strutturata a sopportare quelli che sono i danni psicologici del lockdown è proprio l'umarell. È il più fragile da un punto di vista di costituzione fisica, perché è anziano, perché ha gli acciacchi, perché è avanti nell'età, è quello che più rischia, ma allo stesso momento è quello che meno cambia la propria vita, o sbaglio? Fammi un'analisi, cosa fa l'umarell in questo periodo? L'umarell diciamo che è stato molto limitato nel periodo del lockdown totale, quindi lì non poteva uscire e lì insomma è stato il periodo più duro per l'umarell, perché aveva le sue attività: svegliarsi la mattina presto, andare a fare delle file da qualche parte, oppure andare a fare una piccola spesa, rincasare, insomma, oppure andare con gli amici a giocare a carte, a bocce, insomma, quel periodo lì c'era lockdown e l'umarell. Anche perché a casa non aveva Netflix, le piattaforme digitali, era completamente isolato in quel periodo. Esatto, poi l'umarell vero, quello puro, non ha le protesi digitali, ma addirittura non ha neanche delle cose tipo il bancomat, il vero umarell. Ha un vecchio Nokia con i numeri dei parenti e dei nipoti scritti sopra con un foglietto, fine. Esatto, cioè aveva solamente questo. E quindi l'umarell è stato penalizzato come tutti nel lockdown, ha subito molto, ma ha subito di più la moglie dell'umarell, la Sdaura, che è abituata a cacciarlo fuori di casa, a fare delle commissioni, e invece se l'è trovato tra i piedi tutto il santo giorno. Attualmente invece all'umarell non cambia nulla, perché comunque adesso diciamo, il coprifuoco per lui è la condizione stabile, perenne della sua vita. È stabile, cioè le 20, coprifuoco alle 22 è anche troppo tardi, cioè l'umarell di solito verso le 18 è già a casa, cena e poi la sua giornata può finire, ecco. Allora, fermiamoci un attimo. Allora, avete capito bene la mia domanda? Quanto questo forzato cambio delle vostre abitudini vi ha umarellizzato? Perché se è stato inserito il termine umarel come sostantivo nel vocabolario della lingua italiana, secondo me meriterebbe nella prossima edizione inserire anche i derivati. Il verbo umarelizzare, che può essere sia riflessivo, sia attivo che passivo, soprattutto riflessivo e passivo, umarelizzarsi. Ecco, quanto vi siete voi umarelizzati in questi ultimi mesi? Quanto vi sentite umarel? Sono cambiate le vostre abitudini, non uscite più la sera, alle 6 è tutto chiuso e quindi non potete più vedere gli amici. Vi siete abituati nei mesi passati a fare dei lavori in casa? L'umarel è un grande bricolere, lavora malissimo, fa degli aggiustamenti terrificanti, anche perché compra attrezzi e cacciaviti dai cinesi per spendere meno, quindi sono sempre degli aggiustamenti fatti male, con vecchi nastri adesivi gommati, mettendo i fili che vanno in cortocircuito, chiudendo le perdite ancora con la stoppa e quindi naturalmente allagando casa. Però l'umarel in qualche maniera è una persona che sa dove mettere le mani. Ecco, quali sono i sintomi dell'umarelizzazione nella vostra persona e nelle persone che vi circondano? Signore, avete visto i mariti umarellizzati, i vostri fidanzati, i vostri amanti, i focosi oggetti delle vostre più viscerali contorcimenti? Ecco, quanto si sono umarellizzati? 800 24 00 24. Il cane è un animale paziente, è un compagno fedele che accompagna gli umarels nella loro giornata in giro per la città. Agli umarels piace sapere cosa succede nella propria città e nel mondo, e tutti i giorni si informano all'aria. Ecco, un altro spunto che può senz'altro esservi utile, il cane e l'umarel, mai come in questi ultimi mesi si vedono, si sono visti esseri umani con cani al guinzaglio andare per strada. Ho notato con attenzione, soprattutto in questi ultimi periodi, essendoci un coprifuoco che inizia alle ore 22, diffuso in tutto il paese, alle 21:55 cominciano a uscire le persone col cane. L'ho notato, c'è un signore, non voglio citare, anche perché probabilmente la moglie mi sta ascoltando, che tutte le sere porta fuori il cane alle 10:05, alle 22:05 minuti, alle 21:55. E ho domandato alla moglie: ma perché tuo marito esce sempre proprio sul far del coprifuoco, che è costretto a stare fuori? Cioè, perché il cane, così usiamo il tempo massimo di contenzione della minzione del cane, quindi gliela facciamo fare verso le 10, così almeno fino alla mattina resiste. Eh sì, ma non è così semplice, in realtà è usare un escamotage. Ecco Andrea, primo, buongiorno. Buongiorno, intanto saluto sia te che Danilo, che sono contento di sentire tutti e due nella stessa trasmissione. Io sono diventato un umare casalingo, nel senso che io durante la quarantena, vestito con il mio pigiamino, mani dietro la schiena, guardavo dalla finestra di casa mia al quarto piano fuori la gente che, in base al decreto, in base se era runner o non runner, se si poteva correre o non correre, io giudicavo gli atti della gente e stavo lì a guardare e dire: ma qui non si dovrebbe fare, ma quello fa una cosa che non potrebbe fare, quello porta il cane che non l'ha mai portato in giro, quello corre, non l'ho mai visto correre. E quindi praticamente mi sono trasformato in un umarel, che pensavo già di esserlo, perché già quando ero più piccolo, 40 anni, mi prendevano in giro i miei amici perché avevo già la postura 20 anni fa da umarel, solo che i tempi... Quindi scusa, tu stai osservando un fenomeno molto importante che sicuramente Masotti si annoterà. Diciamo che uno degli effetti del lockdown, oltre l'umarellizzazione di l'umanità, che in realtà non era ancora anagraficamente umarel, però c'è un cambiamento ambientale, c'è la cantierizzazione dello skyline, cioè il tuo punto di vista, il tuo orizzonte, la finestra è diventato un immenso cantiere in cui c'è un'intera umanità da commentare, da criticare. Poi io penso che qualsiasi persona, anche l'umarel, se è umarel dentro, anche se ha una finestra ed è chiuso dentro una prigione, se guarda fuori trova il modo di commentare e di dire qualcosa. Adesso qui sto estremizzando, però intendo dire no, che... No, ma hai ragione. Dunque io questi giorni, lo sai da cosa sono appassionato? Da guardare i video delle persone che alle finestre filmano poliziotti, carabinieri, vigili, che contestano alle persone di contravvenire alle regole del coprifuoco, del lockdown, del distanziamento, e commentano. E c'è sempre una scena divertentissima. La persona protesta, si arrabbia secondo il livello di aspirazione alla libertà, come oggi si dice, e le persone commentano: bravo, fai bene, o stanno alla parte del carabiniere, arrestalo, e rimangono delusi quando non fa la multa. E non ha fatto la multa? Beh, mi sembra che lo scenario è fantastico. Ci fermiamo un istante. Gli Umarels sono monogami e fedeli. Una volta trovata la donna, la staura della loro vita, non la lasciano scappare. Ma oltre agli Umarels girovaghi, ci sono quelli che svolgono magistralmente il ruolo di babysitter. Gli asili costano quanto uno stipendio. Cosa fare? A chi affidare i bambini? Agli Umarels, naturalmente. .800 24 0024. Oggi ricordiamo come il termine Umarel sia diventato Umarels nella versione plurale, sia diventato parte della lingua italiana a tutti gli effetti, perché è entrato nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli 2021, e quindi potremmo tranquillamente definire l'umarellaggine come categoria dell'umanità. Lo scopritore, l'antropologo urbano che ha messo a punto l'osservazione su questa categoria trasversale dell'umanità, Danilo Masomasotti, che è in collegamento con noi. Voglio però dare prima voce alla parte cospicua del nostro pubblico, non avevo dubbi, che sta raccontando la propria fase di umarellizzazione, soprattutto in quest'ultimo momento di lockdown. Stefano da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto? L'ascolto. Sì, l'ascolto. Io lancio un allarme: il rischio di estinzione dell'Umarel, in quanto che vedo che le generazioni successive fanno fatica ad adattarsi. Già Nicoletti, vedo che lei fa un po' fatica perché ancora lavora, sarebbe già in età, ma è una via di passaggio. Io che ho appena un po' meno anni, 63, anch'io faccio fatica, sono una generazione che non si arrende, però nello stesso tempo vedo i valori dell'Umarel, che è una persona che rispetta le leggi, che risparmia. Le generazioni però guardi Stefano, dico sinceramente, se io potessi barattare il mio lavoro con un'attività altrettanto remunerativa, perché devo ancora mantenere i figli, facendo l'Umarel, io queste mattine che dalle 8 alle 10 e mezzo faccio l'operaio in un cantiere e poi faccio il giornalista, dico quanto mi diverto però a fare l'operaio in un cantiere, e che non mi permette di portare a casa la pappa per tutti, questo è fatto, perché non sono specializzato, posso fare poche cose. Ma il problema è che quelli che vengono dopo queste cose non le faranno, non le sanno, non le conoscono. I 50-60 anni sono i più grandi consumatori di cocaina, sono quelli che fanno più incidenti in macchina, proprio rimangono legati all'idea del paninaro degli anni 80, anche se ne hanno 60, cercano di rimanere. Ma io preferisco sniffare la polvere dei mattoncini Siporex mentre li tagliano, piuttosto la cocaina, mi dà molta più euforia, sinceramente. Questa forse è la mia umarellaggine. Esatto, ma è un rischio che gli Umarel si estinguano e sarebbe un danno per la società, l'ecosistema. Sentiamo di Danilo Masomasotti, c'è una previsione, diciamo, di specie in via d'estinzione? Nel caso dovremmo fare dei parchi di ripopolamento di Umarel, cioè dei grandi cantieri riserva dove mettiamo gli Umarel per poter permettere che si riproducano. Non si riproducono più gli Umarel, ma perlomeno li conserviamo, ecco. Allora, il problema che espone l'ascoltatore è reale, ma questo avevo già iniziato a osservarlo sin da subito, perché gli Umarel e i valori umarellici che ho narrato io sono cose appunto di una volta, però l'Umarel si sta evolvendo. Ad esempio, un luogo di totale umarellizzazione, che potrebbe essere un luogo da Umarels del futuro, potrebbe essere Facebook, come già lo è. Se ci pensate, Facebook, ci sono gli Umarels che guardano, gli Umarels che commentano, che dicono la loro, e soprattutto l'età degli utenti di Facebook è molto elevata. Già se parli con un ragazzo di fino a 30 anni, sì, su Facebook ti prende in giro, magari certo, non c'è. Quindi, nel senso, ci sono delle delle evoluzioni. I miei diciamo libri il di buongiornissimo Umarelle... caffè, che hanno una cinquantina d'anni in questo periodo, ecco, però già hanno quella arretratezza dell'Umarelle, certo, certo, usano vecchi esatto, computer. Questa è una cosa molto, molto importante, questa cosa qua. I miei libri, diciamo che nel giro di qualche anno diventeranno dei libri di storia. Guardate come vivevano gli Umarelle di una volta. Ricordiamo sempre che Umarels si nasce, non si diventa. Quindi l'ascoltatore che ha chiamato prima, che ha detto io ho 40 anni e mi sono trovato in casa a guardare quello che succede fuori dalla mia finestra, ecco, secondo me questi skill, queste cose da, tipicamente da Umarell, non dovrebbero scomparire mai, però insomma continuerò a monitorare finché diciamo posso. Ha nel patrimonio genetico l'umarellaggine, la riconosce, a un certo punto la riconosci, la puoi coltivare o reprimere, molti la reprimono sbagliando, chi la coltiva può anche iniziare a coltivarla in giovanissima età. Stefano da Milano. Eccomi. Pronto? L'ascolto Stefano. Ok. Ho trovato lo spazio dell'umarellizzazione come una sorta di disintossicazione dal tempo del lavoro. Mi sono preso i miei attrezzi a casa, io vivo in campagna, lavoro a Milano, e sono riuscito a organizzarmi il tempo del silenzio attraverso il martello pneumatico, mi sono comprato una piccola ruspettina e quindi mi sento molto quindi se vuole, sta facendo parte. Anche lei il suo cantiere personale. Io mi sono fatto una parte della casa per disperazione, perché quando la facevi fare alle imprese non andava mai bene, era sempre colpa tua e tutta, allora dico, per sbagliare pagando sbaglio facendolo da solo. In realtà poi ho preso un muratore che mi ha insegnato a fare un po' le cose, mi sono poi organizzato e poi un po' di aiuti chiaramente, ma è stato una disintossicazione dal frastuono, l'umarellaggine. Anche questo, l'umarell come terapia, l'umarelloterapia potrebbe essere chiamata. Bruno, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, la chiamo perché volevo spezzare una lancia a favore degli Umarelle, che possono essere molto utili. Allora, mi è capitato, parlo di circa 10 anni fa, in cui c'è stata una perdita di gas città, gas metano, e sono usciti mm-hmm. immediatamente gli operai dell'azienda del gas, dell'AM, sì. No? La municipalizzata che si occupa del gas. Sì, con la cartina topografica in cui stavano cercando la serranda, la saracinesca per chiudere il gas e non riuscivano a trovarla. Prendevano le misurazioni con la ruota metrica, arrivavano contro un muro e diventavano pazzi, diventavano matti, ma poi la saracinesca si trova qui e non la trovavano. A che c'era lì un umarello, un pensionato che li osservava. Dopo un po' gli ha chiesto, ma cos'è che state cercando? Stiamo cercando una serranda saracinesca del gas, ma per forza non la trovate. Questo muro qui è stato fatto 15 anni fa e la saracinesca si trova dall'altra parte. Se non c'era questo Marel, quelli dell'azienda di gas erano lì ancora adesso a cercare la saracinesca. Lei ha detto molto interessante. Danilo Masotti, in realtà, al di là di Google Maps, al di là di tutti i rilevamenti, delle mappe topografiche, delle digitalizzazioni degli archivi, l'Umarell ha in sé una memoria storica organica che con lui si estinguerebbe, della città, della conoscenza delle città. Soprattutto del piccolo territorio che lui domina. Nel senso che ogni Umarell ha un suo territorio da controllare, spesso è anche solo il condominio, e l'Umarell sa tutto di quello che accade lì. Questo è un episodio da manuale, l'Umarell che sa tutto di tutte le saracinesche, le condotte. Guarda che sembrerà che lo dico apposta, ma nel corso di questa ristrutturazione ho avuto anch'io lo stesso problema. C'era un tubo del gas che bisogna trovare l'origine. E la municipalizzata con tutte le apparecchiature elettroniche non sapevano dove partisse, perché è un vecchissimo condominio che ha cambiato destinazione, sono fusi, separati. Soltanto un Umarell ha saputo farmi risalire fino a un'antica e dismessa sala da biliardo dove veniva originato questo tubo del gas. Quindi è proprio vero, se non ci fosse stato con l'Umarell staremmo ancora con i rilevatori a cercare l'origine di quel tubo del gas. Fermiamoci ancora un po'. 800 24 00 24. Oggi il tripudio e la gioia che mi coglie ogni mattina quando mi umarellizzo e vivo ore felici nel mio personale cantiere è unita alla soddisfazione di Danilo Maso Masotti, l'antropologo che ha studiato, individuato, analizzato, scientificamente collazionato la figura dell'Umarell, figura ormai che attraversa l'umanità mondiale, ha avuto la soddisfazione di vedere la voce Umarell entrare nel nuovo dizionario della lingua italiana Zingarelli 2021. Quindi a tutti, a pieno titolo, parliamo dell'umarellaggine. L'umarellaggine è una condizione dello spirito, è una metamorfosi non necessaria, non diffusa al 100%, ma molto probabile in questo periodo nell'umanità di genere maschile. Qualcuno mi fa notare, Danilo Masotti, che in realtà è molto presente anche la sdaurizzazione delle signore, però ne parlano molto meno. Molti mi dicono: mia moglie si è sdaurizzata, non chiede altro che taglieri, sta in cucina, veste in maniera orrenda, non gli importa più niente, esce con le tute felpate, con le scarpe da ginnastica, mette quegli orrendi pantaloni larghi, insomma si è sdaurizzata. Perché non parliamo della sdaurizzazione? Possiamo dire due parole su questo? Sì, la sdaurizzazione, diciamo che mentre l'Umarell è molto outdoor, la sdaura è indoor, quindi gestisce delle cose. Si vede meno, diciamo, un fenomeno più nascosto. Vede meno, sì, esatto, sta nascosta, quindi sta nelle case, molto concentrata sulla cucina, molto concentrata sul discorso anche delle pulizie e poi anche un utilizzo comunque di strumenti elettronici come comunque la televisione. Infatti se guardiamo i palinsesti televisivi sono comunque targetizzati spesso per delle sdaure, e poi le sdaure comunque hanno un approccio diciamo che sono più curiose comunque degli Umarells, perché l'Umarell si arrocca nelle sue certezze, la sdaura invece magari osa, si mette magari in discussione la realtà. Senti, ti faccio una domanda molto difficile come risposta. Proviamo. E mi rendo conto che entro in una sfera veramente intima, personale, e per te probabilmente anche perigliosa da toccare. Ma l'attività sessuale fra Umarell e Sdaura è ancora presente? Ha dei, diciamo, dei lampi, dei ritorni di fiamma? È limitata soltanto, diciamo, al minimo indispensabile bimestrale? Su questo hai mai fatto degli approfondimenti? Su questo faccio degli approfondimenti, e ci sono alcuni Umarells che sono, diciamo così, Umarells e Sdaure come hai appena elencato. Però ci sono, altra caratteristica dell'Umarell è raccontare di gesta erotiche incredibili, quindi di performance. Sarebbe il Mandrillels, chiamato Mandrillels, sì, Mandrillels, sì, quello che ancora dici io una volta. Sì. Sì. No, una volta quella signora l'ho fatta urlare di piacere quando le mostrai il mio Black & Decker pulsante, cose del genere, ecco, cazzate naturalmente astronomiche. Adesso ancora di più, e ovviamente il vanto dell'Umarell è senza prendere nessuna pillola. Ah, senza prendere la pillolina, sì. Sì, sì, sì, tutto così, tutta forza. Perugia, c'è una frase terribile, non so se dirlo o no, ma in dialetto stretto non si capisce. Ne ho fatte quattro senza il cavallo, però nessuno saprà mai cosa vuol dire. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Ah, niente, io volevo fare una segnalazione che nel comune dove abito io, Cento, provincia di Ferrara, il comune secondo me sta lavorando proprio perché non ci sia una perdita di questa insomma, questa situazione. La condizione dell'umarellaggine si chiama, sì. Esatto, stanno ristrutturando il palasport del comune e come sì. Ogni cantiere è super protetto da una pannellatura che di 2,5 metri che impedisce di vedere dentro, salvo in un angolo dove hanno disegnato delle figure tipiche di Umarell a grandezza naturale. Le immagini, il classico proprio Umarell con un po' incurvato e le mani dietro la schiena, con dei fori all'altezza degli occhi. Insomma, un invito per chi magari è titubante. Una specie di glory hole per Umarell, che buttano l'occhio nell'impenetrabile luogo del piacere che è appunto il cantiere praticamente. Esattamente, e soprattutto la cosa interessante è che è la ristrutturazione di un bene pubblico, per cui non si tratta della goliardata di un privato, ma si tratta di una sorta di incentivo a questo fenomeno che forse, come dicevate voi, potrebbe essere messo a rischio la sua prosecuzione dai cambiamenti del costume della certo, società. Bisognerebbe pensare, immaginare, questo sì porterebbe molto consenso anche al governo, un ristori mirato proprio alla conservazione dell'umarellaggine, che permetta di creare magari dei cantieri fittizi perché possa l'umarell attingersi dalla scaturigine profonda del suo piacere. Liana, buongiorno. Una donna? Stranissima. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, io racconto una storia di umarella al contrario. Risiedo nella provincia di Roma e venivo sempre in Milano a fare le lezioni come docente all'università. Con il lockdown le lezioni si fanno online. Allora, nei periodi di pausa tra una lezione e un'altra, ho conosciuto gli Umarell a Milano. In via Lorenteggio hanno buttato giù un palazzo Liberty della Necco, l'industria che costruiva. E quindi io mi divertivo e ho conosciuto gli Umarell che stavano lì a vedere. E questo personaggio l'ho scoperto ed è stato fantastico. L'ho perso. Quindi lei ha fatto, Liada, lei professoressa universitaria, sì, per piacere dello studio e diciamo dell'approfondimento, sì, per amore della scienza, ha fatto la descatrice di Umarells per un periodo della sua vita. In pratica. Si è capito. È stata una scoperta fantastica. E infatti questa anglofonalizzazione Umarells non è che mi piace, gli Umarelli per me non avevano plurale, gli Umarelli era bellissimo partecipare alle loro discussioni, alle loro indicazioni, spiegazioni tecniche. No, interessante questa sorta di deriva che dal Toy Boy si passa a l'Umarell Toy, che è una cosa che veramente nemmeno Masotti poteva immaginare. Le telefonate sono tantissime, secondo me è un tema che sotto le feste di Natale piacerà agli ascoltatori rifletterci ancora di nuovo. Alla prossima.